Palla Spicchi di Dario Ricci. Buonasera, buonasera, ben ritrovati insieme a Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia per raccontarvi questa penultima giornata della stagione regolare. Gare che, come sapete, sono iniziate tutte alle 20, quindi sono in corso a partire dal derby lombardo di Desio con Cantù che ospita Milano, 23-32 per l'Armani quando mancano 3:55 alla fine del secondo periodo di gioco, e si comincia a vedere questo Mensa Bonsua che sta dando un bel contributo sotto canestro per quanto riguarda i biancorossi. Cantù non molla, ma è la Cantù di quest'anno a cui sembra mancare qualcosina in più di un centesimo per trovare la famosa lira. Bene comunque Mancinelli, ex più atteso, e anche Aradori, l'altro ex, che stanno tenendo in corsa i canturini. Allora vediamo un pochino di parziali prima di andare sui campi. Banco di Sardegna Sassari, Juve Caserta 35-26 quando siamo al sedicesimo di gioco. Di Cantù Milano abbiamo detto, Varese 29, Pesaro 31 al diciassettesimo. Varese cerca la vittoria per assicurarsi matematicamente il primo posto. Avellino Venezia 26-33, partita importante. Adesso andremo proprio ad Avellino perché vincendo Venezia si assicurerebbe la qualificazione playoff. Roma va via facile 49-34 a Biella, altrettanto per Siena Montegranaro 44-30 quando siamo a 3 minuti dall'intervallo lungo. Reggio Emilia Cremona 37-34, e qui c'è partita e fra poco ci sarà anche collegamento. 31-29 per Bologna sul campo di Brindisi, di fatto un'amichevole visto che entrambe le squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi, o meglio l'obiettivo comune di entrambi, che era la salvezza. Allora, dicevamo di Avellino Venezia, andiamo subito dal nostro Carmelo Prestisimone. Buonasera Carmelo, partita decisiva per gli ultimi sogni playoff di Avellino e per avere invece la certezza della post season per quanto riguarda i lagunari. Come sta andando Carmelo? Esattamente Dario, buonasera, bentrovati dal Pala del Mauro. Mancano 4 minuti e 5 secondi alla fine dell'intervallo del primo tempo del secondo periodo. Venezia conduce più 3, 33-30, è partita molto bene Avellino sotto canestro con Biliga, il pivot camerunense, che ha realizzato subito 6 punti. Poi c'è stato un parziale di Venezia di 1-3. Avellino pareggia lo score 33-33 con una bomba di Tapuan Din che riporta lo score in parità. Pareggio qui al Pala del Mauro. Dicevamo che Avellino ha rintuzzato la scuriata di Venezia con un parziale di 10-0. Molto bene tra i lagunari Lupalek, il primo che ha giocato con Napoli, che poi è passato in Laguna con Lumana, mentre bene tra Irvini il solito Lagovic, che sta gestendo con grande acume la squadra irpina. In questo momento Avellino è avanti con una schiacciata di Dragovic, 36 Avellino 33, mancano 3:30 alla fine del secondo periodo a Cesario. Ok, resta là Carmelo. Intanto Milano avanti 32-25 a Desio su Cantù quando mancano 3:17 alla fine del secondo quarto. 32-26 in questo istante grazie al 2-2 di Smith dalla linea della carità. Andiamo invece a Reggio Emilia per questo interessante Trenkwalder Vanoli Cremona. Non c'è più molto da chiedere in questa fase della stagione alle due squadre, ma Reggio Emilia sta mettendo a punto il motore per la post season. No, Stefano Valenti, buonasera. Buonasera da Reggio Emilia. Pronto Stefano? Sono qua, buonasera da Reggio Emilia, dove c'è un bel trastorno. Poi però ora da giocare alla fine del secondo quarto, un piccolo margine di vantaggio per Reggio, Trenkwalder 43, Vanoli 38. Come dici anche tu, partita dei significati non troppo forti per la Vanoli, che ha conquistato la salvezza e la resa molto onorevole battendo Milano, Sassari e Siena, garantendosi il diritto a quella che sarà la quinta stagione in Serie A, problemi societari permettendo. Reggio invece ha già conquistato dei risultati importanti in questa sua stagione, perché sa già che torna in playoff per lo scudetto dopo 14 anni, pure se ne ha vissuti 9 in Lega 2, ha già stabilito il suo record di vittorie in Serie A con 17, il precedente era 16, e adesso prova a conquistare il miglior piazzamento di sempre in stagione regolare, che è un settimo posto che risale anche questo al 99. Bene. Partita piacevole fino adesso, poco fischiata dagli arbitri che lasciano giocare i migliori sui due campi, da una parte già 12 punti per Andrea Cinciarini, gravato anche di due falli, e dall'altra parte ce ne sono già 17 per Peric. Beh, insomma, Stefano, 43-38 Reggio Emilia, timeout. Eh sì, Stefano, un po' una partita da playground, ma che serve anche per mettere appunto muscoli e fiato in vista dei playoff reggiani. E splendida stagione questa di Cinciarini, che ritornerà con maggiore autorevolezza, credo, in maglia azzurra in vista degli europei di Slovenia 2013 a settembre. Rifarei un salto da Carmelo Prestisimone ad Avellino, perché ho sentito il campo d'Avellino è particolarmente caldo ed è di fatto quello principale in questa giornata. Carmelo. Avellino 37, Venezia 35, mancano 3 minuti e 3 secondi alla fine del secondo periodo. C'è stato un parziale fortissimo di Avellino, 18-0, naturalmente il pala del Mauro si è entusiasmato. Adesso seguiamo l'attacco di Venezia con la bomba del sempreverde Alvin Young, che riporta i lagunari in vantaggio sul più 1, 38-37, 2 minuti e 40 alla fine del secondo periodo, con Avellino in attacco. Seguiamo questa azione, Lagovic, Berdin, la bomba non prende praticamente un airball, non prende neanche il ferro. Venezia in attacco, la stoppata di Johnson sul layup di Bowers, riparte Avellino, Dean, fallo di Rosselli. 38 Venezia, 37 Avellino, 2:30 alla fine del secondo periodo a Sedario. Grazie Carmelo, uno sguardo anche a Barese, dove la capolista soffre con Pesaro, 38-36 quando mancano 45 secondi all'intervallo lungo per i marchigiani, 13 punti di Barbur, 10 di Crosariol con anche 5 rimbalzi, anzi 3 rimbalzi per il centro azzurro, 5 punti per Mac. Ricordiamo Pesaro che ha già liberato Kinsey una volta ottenuta la salvezza. Per quanto riguarda Varese, curiosità per l'esordio di Dejan Ivanov, finora 2 punti con 1 su 2 da 2, 0 su 1 da 3, 4 rimbalzi, quindi tutto sommato comincia a prendere possesso del suo posto in squadra il bulgaro. 12 punti per Sakota, finora 3 su 3 da 2, 2 su 2 da 3 punti, 6 punti per Banks, e sacrificato nel turnover per far posto ad Ivanov proprio quel Tals che soprattutto in questa terza parte della stagione è stato tra i più positivi in casa varesina. Per quanto riguarda gli altri parziali, allora, Avellino, Venezia, abbiamo detto, Roma decisamente avanti, ancora Biella 53-40 quando siamo all'intervallo, 50-37 il vantaggio di Siena su Montegranaro, partite facili ma 2 punti importanti per sbrogliare soprattutto quella zona tra il quarto e l'ottavo posto che davvero diventa molto molto, tra il terzo anzi, l'ottavo posto e il settimo posto che diventa davvero decisiva poi per conquistare una piastrella importante in vista del piazzamento playoff. E poi Brindisi ora avanti su Bologna di 3, 38-35 quando siamo al 18esimo, 48 secondi alla fine del secondo quarto a Desio, e Cantù che è tornata decisamente in partita con Milano, 33-37 per l'Armani. Ora Radori mette dentro anche il secondo libero, 34-37, Canturini sotto di appena 3 punti dopo essere stati in svantaggio anche di 11 sul 22-11 per Milano. Ed ora è Marques Green che prova a riavviare l'attacco dei biancorossi. Torniamo ancora da Avellino, Carmelo Prestisimone, un altro flash, grazie. Sì, Dario, Venezia ha messo decisamente il muso avanti, 43 Venezia, 39 Avellino, 30 secondi alla fine del primo tempo, con Avellino che attacca, i lagunari si sono fatti sotto con una bomba, di Clark, il tentativo di replica da parte di Kine che però va sul ferro. Segniamo appunto la fine di questo primo tempo con Venezia, Kiki Clark che gestisce il pallone, la palla per Rosselli, poi Young che chiede l'isolamento, il blocco di Shevchik, crocia il pick and roll, il tiro da due, dai quattro metri di Young che finisce sul ferro, poi Dragovic tenta il tiro da metà campo e finisce il primo tempo qui da Avellino. Avellino 39, Venezia 43. A te Dario. Grazie Carmelo, è finita anche a Desio, finito del primo tempo con Milano che è riallungato grazie a un bel canestro sulla sirena di Marques Green a 2 secondi dalla sirena dell'intervallo lungo, 41-34 per Milano su Cantù. Allora, vi ricordo anche che Sassari avanti su Caserta 42-30, quindi casertani che di fatto sembrano aver mollato gli ormeggi nella disperata del resto corsa playoff. Ora intervallo per il traffico, poi andiamo a Desio, se tutti gli aggiornamenti dai campi e anche parleremo di Eurolega ed NBA. Palla spicchi. Eccoci qua ancora insieme per condividere il tanto basket di questa serata. Allora andiamo subito al Desio dal nostro Roberto Nardella, fine primo tempo con Milano avanti 41-34, protagonisti Roberto da una parte e dall'altra, buonasera. Buonasera, qui dalla Palasport di Desio, protagonista della partita sicuramente Alessandro Gentile, 14 punti nel primo quarto, 16 nella partita con Milano avanti 41-34 a fine primo tempo. Dall'altra parte però ha risposto la formazione di Cantù ovviamente con Taius e Aradore e anche comunque con uno dei grandi ex della partita come Stefano Mancinelli. Io sono in compagnia di un altro grande ex del basket milanese come coach Franco Casalini. Franco, un giudizio sul primo tempo di questo derby. È una Milano convincente, ha cominciato subito bene, naturalmente spinta da un solo giocatore, ma contrariamente altre volte era un giocatore che era il risultato di un lavoro collettivo, anche se gran parte del merito è di Alessandro Gentile ovviamente, però è la squadra che ha difeso bene, ha difeso meglio di altre volte e dall'altra parte ha giocato per quello che per tutto il primo periodo è stato inarrestabile, ovvero sia proprio Gentile. E poi ha saputo anche reagire in diversi momenti all'ovvio ritorno di Cantù che ha segnato alcuni piccoli parziali e grazie anche al lavoro sia di Mensah Bonsu sia anche dei suoi due poi migliori attaccanti, più esperti attaccanti come Langford Eason, anche alla fine del tempo ha rintuzzato un possibile riavvicinamento, adesso 7 punti di vantaggio, sono più o meno lo specchio del primo tempo, poteva essere con l'ultimo minuto negativo invece annullato quasi, quindi sicuramente tutto da giocare, tutto da vedere, però Milano ha dato una buona prova di sé in questi primi 20 minuti. Decisamente così con l'Olimpia, che è stata anche a più 11 ora, come vi dicevo, 41-34 il parziale del primo tempo qui da Desio. Grande Roberto, grazie a coach Casalini, ben ritrovato Carlo Genta. Ciao Dario, buonasera a tutti. Allora, domani alle 14, lo ricordo, tutti convocati da Carlo Genta per l'appuntamento del lunedì. Beh, Carlo, come sempre, siamo assolutamente presenti, rispondiamo presenti alla tua convocazione. Oggi ti voglio un po', visto che siamo nell'intervallo e grandi sorprese non ce ne sono. Ecco, Varese è tornata avanti con Pesaro 42-41, del più 12 di Sassari su Caserta, l'abbiamo detto. Hai già comprato il pallottoliere per la prossima domenica? Sì, prossima domenica prevedo partite intorno sul modello di gara 3 tra Bulls e Nets, insomma. Bravo. Però senza i 3 supplementari. Mi ha fatto far tardi questa notte, anche perché vedere le partite NBA in diretta è sempre una tortura cinese tra supplementari e quant'altro, però ne valeva la pena perché è stata una partita memorabile. Assolutamente d'accordo con te, Carlo, però ti stuzzico sull'Eurolega, altra tua grande passione, perché approfittiamo di questo intervallo, visto 10-12 maggio Londra Final Four, avremo Barcellona Real Madrid, CSKA Olympiacos, rivincita della finale incredibile dell'anno scorso. Beh, il quesito che ti faccio è: ce la farà coach Messina a riportare a Mosca questa coppa? Allora, premesso che, come tutti sanno, non struscio un pronostico dal 74. Figura di chi ti sente, perché io a Londra 2012 ci avevate fatto addirittura una mia rubrica sui pronostici sbagliati, quindi vai tranquillo. Non struscio un pronostico dal 74, allora derby spagnolo che richiederà grande energia mentale, quindi io credo che abbiamo delle esperienze passate anche che ci riguardano sui derby di Eurolega, e io credo che richieda troppa energia nervosa per poi presentarsi poche ore dopo a giocare alla finale. Io credo che il Barcellona vincerà quella partita, credo che Ettore Messina batterà l'Olympiacos, credo in una finale Olympiacos, cioè CSKA Barcellona, e vedo Ettore Messina campione d'Europa. Però, ripeto, vale la pena scommettere contro i miei pronostici, perché tanto non ne becco uno appunto dal 74. Vediamo, perché potrebbe essere invece l'eccezione che conferma la regola. Chiaramente coach Messina, gli concediamo il beneficio dello scongiuro del caso, Carlo? sicuro, gli concediamo il beneficio dello scongiuro del caso, ma CSKA mi sembra la squadra più forte, e Barcellona CSKA mi sembra la soluzione più equa di questa stagione di Eurolega, perché sono state le due squadre che hanno giocato la pallacanestro migliore, che meriterebbero forse di vivere l'ultimo atto. Però ripeto, fosse stato un altro accoppiamento sarei stato meno sicuro, però sono certo del fatto che Barça-Real sia una partita che richiederà, ma lo sappiamo bene perché anche noi italiani di derby di semifinale nelle Final Four purtroppo molti anni fa ne abbiamo vissuti, io credo che sia una partita che richiederà molto dispendio di energie mentali, nervose, fisiche, eccetera, quindi vedo sfavorita la squadra che uscirà vincente da quel derby, Dario. Difficile darti torto, Carlo, intanto abbiamo registrato il pronostico, quindi ce lo risentiamo fra un paio di settimane, intanto appuntamento domani alle 14 con tutti i convocati. Ciao Dario, grazie, buonasera a tutti. Grazie a Carlo Genta, domani appuntamento con tutti i convocati alle 14, invece subito troviamo l'appuntamento col professor Flavio Tranquillo, ben trovato Flavio. Buonasera. Beh, allora Flavio, ti sento in viaggio, allora ti aggiorno anche su quanto sta accadendo tra Boston e New York. Siamo in gara 4, Boston avanti 61-51 a metà del terzo quarto, quindi per carità, magari finisce qui, però insomma i Celtics non hanno troppa fretta, diciamo così, di uscire da questa post-season, no? No, e poi mi sembrano il tipo di squadra che prima di mollare onestamente almeno un messaggio, almeno un colpo vuole darlo, come minimo. Ecco Flavio, di fatto oggi abbiamo visto anche il collega Massimo Oriani sulla Gazzetta analizza i motivi delle difficoltà di quest'anno di Lakers e Celtics, fa una certa impressione comunque vederle così vicine al passo d'addio da questa post season, no? Anche se non ci sarebbe nulla di strano per come è andata la stagione finora. Direi che per i Celtics è un discorso relativo al fatto che sono noti che vengono al set, quando quei posti è una squadra che sono per rimettere la età, quindi non quest'anno, ma come fanno per i Celtics, sai che prima o poi arriva un certo tipo di resa dei conti, e il discorso dei Lakers è un po' diverso. È vero che anche l'età, per esempio, nel caso di Nash, in parte di Kobe Bryant, ha recitato un ruolo per una squadra che era basata su diversi presupposti. Ti chiedo un'ultima cosa, Flavio, minutaggio decisamente ridotto per Belinelli nei playoff rispetto a quanto aveva fatto vedere nella regular season, ma Marco sembra, almeno a vedere le cifre, anche l'attitudine, stia reagendo bene, no? Perché comunque il suo apporto, pur nei pochissimi minuti spesso concessogli da coach Thibodeau, non sta mai mancando. Segno di maturità ormai raggiunta, acquisita. Ma io penso che la maturità acquisita l'abbiamo vista in Game 2, che era quella più difficile per i Bulls. Lui è stato il giocatore più importante del primo quintetto dei Bulls, che era il secondo di quella partita per Chicago, che abbia veramente cominciato a cambiare un po' il senso della serie. Lo so che non è quello che vorrebbe lui, però in questi casi guardare la parte del bicchiere che è piena e non quella che vuota. Assoluto consiglio che arriva direttamente oltreoceano a Chicago per Marco Belinelli da Flavio Tranquillo. Grazie Flavio, ti ritroviamo domenica. A presto. Grazie a Flavio Tranquillo. Tornerei da Carmelo Presti Simone ad Avellino, intervallo lo ricordiamo 43-39 per Venezia su Avellino, Lagunari davvero a un passo dai playoff. Carmelo. Dario, Lagunari è un passo ai playoff, ma Avellino naturalmente vuole rovinare la festa dei veneti, visto che insomma c'è un Pala del Mauro davvero gremito, 3500 spettatori, ci sono anche 60 tifosi che arrivano direttamente da Venezia, c'è stato un bel gemellaggio di segnali chiari, striscioni, insomma, dall'una e dall'altra parte. Dicevi appunto Venezia avanti più 4 alla fine del primo periodo, è stata per il momento una partita ad elastico. Avellino è partita bene 10-6, poi c'è stato un parziale di Venezia di 11-0, Avellino si è rianimata realizzando un parziale di 18-0 e poi i veneti hanno ripreso in mano la partita con un altro parzialino di 5-0. C'è stata una marcatura sbagliata riconosciuta da parte di coach Pancotto, di Richardson su Diawara, ma il fattore vero di Avellino è Taquan Din, la guardia statunitense, che ha realizzato 13 punti con un 2 su 4 da 2 e un 2 su 5 da 3 punti, mentre invece Venezia ha rotto gli equilibri con la presenza di Giri Upalek sotto canestro, che ha realizzato un 2 su 2 da 3 punti, 1 su 1 da 2, 9 punti per il centro ceco, e poi la solita presenza sul perimetro nella gestione dell'azione da parte di Kiki Clark, il playmaker americano, che anche lui è vicino alla doppia cifra con 9 punti. Vedremo naturalmente cosa succederà nei prossimi due periodi. Qui ad Avellino, Dario, c'è odore di playoff sia dalla parte campana che dalla parte veneta. Sì, e c'è anche la musica giusta, direi, almeno a sentire il sottofondo. Grazie a Carmelo Prestisimone, oggi impegnato a tutto campo, dalla cronaca allo sport, con uguale efficacia. Un plauso a Carmelo oggi per il contributo che sta dando, così come un ringraziamento a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleoni in regia. Parla Spicchi si ferma qui, ma i risultati finali ve li diamo nelle prossime edizioni di GR24, insieme anche agli aggiornamenti su Milan-Catania, attualmente 0-0 dopo 11 minuti di gioco sotto il diluvio a San Siro. A fra pochissimo, mentre Palla Spicchi torna come ogni domenica prossima alle 20:30.